A New York, questi giorni d'estate, l'alba è una faccia gonfia, colpita da un raffreddore mostruoso e ansimante per l'agonia di un'attesa. Qui le case, in fila serrata, come soldati, escludono il cielo. A oriente, un'altra palizzata, sopra questa cerca di salire un pavido rossore. Mi accingo comunque al rito della purificazione, a lavarmi. Oh, cara acqua, caro, caro sapone. Poiché sono povero, nessun rito mi purificherà. In questa stanza gremita tutto mi tocca, mi sporca. Cominciare la giornata sentendosi sudici è come andare in guerra senza credere alla causa. Qui una breve pausa felice per pensare a quanto farò durante il giorno. Il ventre caldo e profondo della notte ha ora generato rumori. I rumori passano sopra di me che giaccio insensibile sotto lavoro, latte, pane, vestiti. Patate, patate, questa è la grande bellezza che continua a brontolare. È questa l'eterna musica del mondo. Trascinando l'anima vado alla finestra. Le dita del sole raggiungono lente la faccia della casa di fronte. È l'ora che la gente va al lavoro, a est e a ovest, due processioni silenziose. Sformati cappelli, troppo larghe le giacche, le scarpe, un grottesco camminare, un grottesco che non fa ridere nessuno. Sono felici, forse? Perché naturalmente. Ma lo sanno in realtà dove vanno? E il primo di loro ha trovato laggiù qualcosa per la sua felicità? E ha telefonato o telegrafato agli altri che vanno senza guardarsi attorno, senza conoscersi, tutti insieme a est e a ovest? Il mondo ha decretato, questi uomini vanno consapevoli a est e a ovest. Oh, ascoltami, strada. Le tue parole siano per me un delicato sussurro. Sono giovane. È una bella giornata. Io guardo diritto davanti a me, passi ritmati, freddo e rigido, cammino. L'umore è leggero nelle strade del mattino. Rimbalza sui tetti, spinto avanti dai piedi rosa del vento. A noi. A noi siamo incatenati al marciapiede, ma teniamo gli occhi in alto, leggeri, leggeri. Tu soffia via la polvere dei nostri morti e salvaci tutti da quelli che si stanno consumando nelle nostre case. Guarda la polvere fina da quelle finestre, guarda la polvere in collera con il sole. Chi è che ha gettato tra noi questi bambini, loro e i loro giochi e le loro guerre? Dammi, dammi! Re dell'umore trionfante, il venditore di ghiaccio snocciola facili doppi sensi a una signora della polvere. Kaiser della leggerezza mattutina, il poliziotto, ruotando il manganello, disegna geroglifici sacri, furtivamente rubo. A che cosa e a chi? Lo so io. Un po' di giovinezza per me. Non so nulla, non dimentico nulla, sono ben contento di vivere al mattino. Let us be lovers, we marry our fortunes together. I got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies, and we walk off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Sagina. I've gone to look for America. Laughing on the bus, playing games with a face. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, this bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I look at the scenery, she read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I say, true, I knew she was sleeping. I'm hunting and aging and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they all go to meet for America. All go to look for America. All go to look for America. Le station wagon arrivarono a mezzogiorno. Lunga fila lucente che attraversò il settore occidentale del campus. In fila indiana, girarono con cautela attorno alla scultura metallica in forma di I color arancio, dirigendosi verso i dormitori. I tetti delle auto erano carichi di valigie assicurate con cura, piene di abiti leggeri e pesanti. Scatole di coperte, scarponi e scarpe, cancelleria e libri, lenzuola, cuscini tra punte, tappeti arrotolati e sacchi a pelo, biciclette, sci, zaini, selle inglesi e western, gommoni già gonfiati. A mano che rallentavano fino a mettersi a passo d'uomo e infine fermarsi, saltavano fuori velocissimi gli studenti che si precipitavano agli sportelli posteriori per cominciare a scaricare gli oggetti sistemati nell'interno, gli stereo, le radio, i personal computer, piccoli frigo e fornellini portatili, scatole di dischi e cassette, asciuga e arricciacapelli, racchette da tennis, palloni da calcio, mazze da hockey e da lacrosse, frecce e archi, sostanze illegali, pillole e strumenti anticoncezionali, junk food ancora nei sacchetti della spesa, patatine all'aglio e alla cipolla, nachos, tortini di crema di arachidi, wafer e cracker, chicchi alla frutta e popcorn caramellato, gazzose dum dum, mentine mystic. È uno spettacolo cui assisto ogni settembre da 21 anni. Un evento infallibilmente superbo. Gli studenti si salutano a vicenda con grida comiche e fingendo improvvisi svenimenti. L'estate l'hanno avuta gravida di piaceri proibiti, come sempre. E i genitori se ne stanno lì, abbagliati dal sole accanto alle auto, vedendo immagini riflesse di se stessi in tutte le direzioni. Abbronzature coscienziose, volti ben composti e gli sguardi carichi di ironia. Avvertono un senso di rinnovamento, un mutuo riconoscersi. Le donne, briose e vigili, con snelle figure denotanti dieta, conoscono i nomi di tutti. E i mariti, paghi di calcolare quanto tempo è passato, distaccati ma comprensivi, esperti nel ruolo di genitore, ne ispira un qualcosa che denota una copertura assicuratura stratosferica. È tale congrega di station wagon, come tutto ciò che a tali genitori capita di fare nel corso dell'anno, a confermare loro più dei riti formali e delle leggi, come essi costituiscono un'accolta di persone dai pensieri uguali, dai valori simili. Un popolo, una nazione. La mia amministrazione ha chiamato tutti i leader del Medio Oriente per fare tutto quello che possano per fermare la violenza, per dire a tutte le parti coinvolte che la pace non ci sarà mai. George W. Bush. Psst. Coglione. Alfred si svegliò con un sobbalzo nel lento e tremolante beccheggio della Gunnar Myrdal. C'era qualcuno nella cabina? Coglione. Chi è là? Chiese Alfred con un tono a metà tra sfida e paura. Un piccolo animale, un topo, fuggì tra le ombre stratificate ai piedi del letto di Enid. Per un momento Alfred credette che l'intero pavimento fosse formato da corpuscoli in fuga. Poi i topi diventarono un unico topo più impudente, un topo orribile, palline di escrementi appiccicosi, propensione a rosicchiare, pisciate incontrollate, coglione, coglione, lo schernì il visitatore uscendo dall'oscurità per entrare nella penombra accanto al letto. Alfred lo riconobbe con sgomento. Dapprima vide la rammollita sagoma escrementizia, poi colse una zaffata di decomposizione batterica. Quello non era un topo, quello era lo stronzo. «E adesso hai problemi urinari?» disse lo stronzo. Era uno stronzo sociopatico, un pezzo di merda a piede libero, un chiacchierone irrefrenabile. Si era presentato ad Alfred la sera prima, turbandolo a tal punto che soltanto il soccorso di Enid, lo splendore della luce elettrica e un tocco consolatorio sulla spalla aveva salvato la notte. «Sparisci!» ordinò Alfred con fermezza. Ma lo stronzo si arrampicò sul bordo del lindo letto della Nordic, che si rilassò sulle coperte come un brie o un cabrales avvolto in una foglia e odoroso di letame. «Come vuoi, amico, stai a vedere!» E si sciolse letteralmente in un ilare scoppiettio di scorregge. La paura di incontrare lo stronzo sul cuscino richiamò lo stronzo sul cuscino, dove prese a dimenarsi assumendo pose di sfavillante benessere. «Vattene, vattene!» disse Alfred piantando un gomito nella moquette mentre usciva dal letto a testa in giù. «Col cazzo!» rispose lo stronzo. «Prima entrerò nei tuoi vestiti.» «No!» «E invece sì, amico, ti entrerò nei vestiti e ti striscerò addosso, ti imbratterò tutto e lascerò la scia. Puzzerai da far schifo. Perché? Perché? Perché vuoi farlo?» «Perché mi si addice», gracidò lo stronzo. «Sono fatto così. Mettere il benessere di qualcun altro davanti al mio. Saltare dentro un cesso per essere gentile, questo è ciò che faresti tu, amico, col culo ragioni. E guarda dove sei finito. Gli altri dovrebbero avere più rispetto e tu dovresti averne meno. Io personalmente sono contrario a qualsiasi censura. Se hai un prurito, grattalo. Se vuoi una cosa, prendila. I miei interessi sono sempre al primo posto. La civiltà è basata sulle restrizioni», disse Alfred. «La civiltà è sopravvalutata. Lo sai che cosa ha fatto per me? Mi ha buttato nel water, mi ha trattato come merda, ma è quello che sei!» implorò Alfred, sperando che lo stronzo vedesse la logica del suo discorso. «È a questo che servono i gabinetti. Chi hai chiamato merda, coglione? Credi che io non abbia gli stessi diritti degli altri? Vita, libertà, ricerca della ficticità, lo dice la Costituzione degli Stati!» «Ti sbagli», disse Alfred, «quella è la dichiarazione di indipendenza. Un vecchio pezzo di carta ingiallita. Che cazzo me ne frega se è questo o quell'altro? I pignoli culi stretti come te hanno sempre corretto ogni mia dannata parola fino a quando ero alto così. Tu e tutti quei costipati insegnanti fascisti e poliziotti nazi, per quel che me ne importa, quelle parole sono stampate su un foglio di carta igienica del cazzo. Io dico che siamo in un paese libero. Io faccio parte della maggioranza e tu, amico, sei in minoranza, quindi vaffanculo.» L'atteggiamento e il tono della voce sembravano ad Alfred stranamente familiari, ma non riusciva a identificarli. Lo stronzo cominciò a ruzzolare e a dimenarsi sul cuscino, ricoprendolo di una lucida pellicola marrone verdastra, punteggiata di piccoli grumi e fibre, lasciando grinze e solchi bianchi sulle pieghe della stoffa. Alfred, sul pavimento accanto al letto, si tappò bocca e naso con una mano per mitigare il tanfo e il ribrezzo. Poi lo stronzo gli corse su per la gamba del pigiama. Alfred sentì il solletico delle sue zampette da topo. «Enid!» chiamò con tutta la forza che aveva. Lo stronzo era da qualche parte in cima alle cosce, sforzandosi di piegare le gambe rigide e agganciare i pollici semifunzionanti all'elastico. Alfred si tirò giù i calzoni per intrappolare lo stronzo nella stoffa del pigiama. D'improvviso capì che lo stronzo era un detenuto evaso, un rifiuto umano che doveva stare in prigione e che le prigioni erano state create proprio per gente come quella che credeva di poter dettare legge al posto della società. E se il carcere non bastava a scoraggiarli, meritavano la morte. Morte! Attingendo forza dalla propria rabbia, Alfred riuscì a sfilarsi dai piedi il pigiama pallottolato e, dondolando le braccia, lo lanciò sulla moquette, lo picchiò con gli avambracci e infine lo incastrò fra il materasso duro e la rete del letto Nordic. Si inginocchiò a riprendere fiato con indosso la giacca del pigiama e il pannolino per adulti. Enid continuava a dormire. Quella notte la sua posizione aveva qualcosa di nettamente fiabesco. Sbeffeggiò lo stronzo. Era riapparso sulla parete sopra il letto di Alfred e penzolava precariamente, come se ce l'avessero scagliato, accanto a un'acquaforte incorniciata del lungomare di Oslo. «Che Dio ti maledica!» disse Alfred. «Il tuo posto è in prigione!» lo stronzo emise una risata sibilante mentre scivolava con lentezza lungo la parete con i vischiosi pseudopodi che minacciavano di gocciolare sulle lenzuola sottostanti. «Secondo me», disse, «i costipati cronici come te vorrebbero mettere in prigione qualunque cosa, per esempio i bambini. Così fastidiosi, caro mio, tirano giù i ninnoli dagli scaffali, fanno cadere il cibo sul tappeto, strillano a teatro, non c'entrano il vasino, sbattiamoli in galera, e i polinesiani, accidenti, portano la sabbia in casa, lasciano odore di pesce sui mobili, e che dire di tutte quelle pollastre adolescenti con le tette di fuori in prigione? E perché non dare da 10 a 20 anni, già che ci siamo, a tutti i piccoli teenager arrapati per insolenza e mancanza di rispetto, e i negri? Punto dolente, Fred. Mi pare di sentire urla fragorose e grammatica interessante. Sento odore di liquori al malto e di sudore abbondante e capelli sporchi e tutto quel ballare e ululare e quei cantanti che tubano come parti del corpo cosparse di saliva e gelatine speciali. A cosa serve una prigione se non a buttarci dentro un negro? E i caraibici con i loro spinelli, i marmocchi pancioni, i barbecue quotidiani, gli antivirus portati dai topi e le bevande dolciastre con il sangue di maiale sul fondo del bicchiere. Chiudi la porta della cella e mangiati la chiave. E i cinesi, con quelle disgustose verdure dai nomi strani che somigliano a cazzi artificiali che qualcuno si è dimenticato di lavare dopo l'uso. Un dollalo, un dollalo, un dollalo, e quelle carpe viscide e quegli uccellini spellati vivi, e poi tipo la zuppa di cane e i ravioli fichetta e le neonate femmine, manicaretti nazionali, niente meno. E il Park Bang, nome con cui ci si riferisce all'ano di un maiale, probabilmente un pezzo di carne dura e setolosa, ano di maiale, e i cinesi che pagano per mangiarlo. Che ne diresti di buttare una bella bomba atomica e farli fuori tutti quanti, 1.200.000.000 di cinesi in un colpo solo? Così quella parte del mondo sarebbe ripulita una volta per tutte. E non dimentichiamoci delle donne in genere, con quella scia di Kleenex e Tampax che si lasciano dietro dovunque vanno, e le checche con i lubrificanti professionali e i mediterranei tutti basette e aglio, e i francesi con i loro reggicalzi e i loro formaggi puzzolenti, e gli operai grattapalle con i motori truccati e i rutti alla birra, e gli ebrei con il puzz circonciso e i pesci gefilte che sembrano stronzi in salamoia, e i wasp con le barche super veloci e i cavalli da polo con la goccia al culo e quei sigari infernali che ti fumano sotto il naso. Ehi, è strano, Fred. Gli unici che non stanno nella tua prigione sono i maschi nord-europei di classe medio-alta. E tu insisti nel dire che io voglio fare le cose a modo mio? Che cosa devo fare per mandarti via da questa stanza? Disse Alfred. Rilassa il vecchio sfintere, amico. Lascialo andare. Ha ha. notte Loretta si sveglia solo perché sono sveglio io. Sto sdraiato nel letto e lei mi chiama per nome, come per vedere se ci sono. Certe volte vado in cucina, le prendo un ginger ale e ce ne restiamo stesi al buio. Vorrei saper prendere le cose con la sua stessa serenità. Il mondo che ho visto non ha fatto di me una persona spirituale, non quanto lei. E poi è preoccupata per me, lo vedo. Un tempo pensavo che, dato che ero più vecchio ed ero l'uomo di casa, lei avrebbe imparato da me. E per molti versi è stato così. Ma in fin dei conti so chi dei due è in debito. Mi pare di aver capito che strada abbiamo preso. Ci stiamo facendo comprare con i nostri stessi soldi. E non è solo la droga. Ci sono intere fortune che si stanno accumulando senza che nessuno ne sappia niente. Ma cosa può venire da tutti questi soldi? Soldi che possono comprare paesi interi. È già successo. Riusciranno a comprare anche questo paese? Non credo. Ma ti fanno finire a letto con gente che sarebbe meglio evitare. E non è neanche un problema di ordine pubblico. Secondo me non lo è mai stato. Le droghe sono sempre esistite. Ma la gente non decide di drogarsi senza motivo, a milioni. E su questo non ho risposte da dare. E in particolare non ho risposte rincuoranti. Qualche tempo fa l'ho detto a una giornalista, una ragazza giovane, sembrava abbastanza in gamba, era soltanto in prova come giornalista. Mi ha chiesto: «Sceriffo, come mai ha permesso che in questa contea il crimine le sfuggisse di mano fino a questo punto?» A me sembrava una domanda giusta, tutto sommato. Forse lo era. Comunque le ho risposto dicendo: «I guai cominciano quando si inizia a passare sopra alla maleducazione. Quando non si sente più dire grazie e per favore, vuol dire che la fine è vicina». Gli ho detto: «È una cosa che va a toccare ogni strato sociale». L'ha sentita questa espressione, no? Ogni strato sociale. Alla fine si arriva a quella sorta di crollo dell'etica mercantile che lascia la gente morta ammazzata in mezzo al deserto, dentro una macchina, e allora è troppo tardi. Lei mi ha guardato un po' strano. E allora l'ultima cosa che le ho detto, e forse avrei fatto meglio a stare zitto, è stata che non si può mettere su un traffico di droga senza i drogati. Un sacco di drogati si vestono eleganti e hanno anche dei lavori ben pagati. Gli ho detto: magari lei ne conosce perfino qualcuno. E l'altra cosa sono i vecchi. Non riesco a levarmeli dalla testa. Mi guardano e hanno sempre negli occhi una domanda. Anni fa, me lo ricordo, non era così. Non era così quando facevo lo sceriffo negli anni 50. Ora li vedi e non ti sembrano neanche confusi, ti sembrano impazziti. Questo mi dà da pensare. È come se si fossero svegliati all'improvviso senza sapere come sono arrivati lì, lì dove sono. Beh, e in un certo senso non lo sanno davvero. Stasera a cena Loretta mi ha detto che sta leggendo San Giovanni, l'Apocalisse. Ogni volta che mi metto a parlare di come vanno le cose, lei trova qualche passo della Bibbia che fa al caso mio. E allora gli ho chiesto se l'Apocalisse aveva qualcosa da dire sulla piega che sta prendendo il mondo. E lei ha risposto che me l'avrebbe fatto sapere. E gli ho chiesto se da qualche parte si parlava di capelli verdi, ossa nel naso. Lei mi ha detto chiaro e tondo di no. Non so se sia un buon segno. Poi è venuta a mettersi dietro la mia sedia e mi ha abbracciato il collo e mi ha dato un morso sull'orecchio. Per tanti versi ancora una ragazzina. Se non avessi lei non so cosa mi resterebbe. Anzi sì che lo so. E non mi servirebbe neanche una cassa per mettercelo dentro. Waiting for some mail to come. It's been good to know you. I love the way I sing that song. Io so che l'essere umano e il pesce possono coesistere pacificamente. George W. Bush. Date un'occhiata, per favore. Riuscite a vederci? Riuscite a vederci nella nostra utilitaria rossa? Immaginateci dall'alto, come se volaste sopra di noi in elicottero o sul dorso di un uccello, mentre la nostra automobilina sferraglia pancia a terra, arrancando su per la sua lenta traiettoria, ma pur sempre a 85-90 all'ora, avviluppandosi intorno alle interminabili, talvolta assurde curve in cui si snoda la Highway 1. Osservateci, per Dio, sparati a fionda dal lato nascosto della luna mentre ci gettiamo a braccia aperte verso tutto quello che ci spetta. Ogni giorno raccogliamo quel che ci viene incontro, ogni giorno veniamo ripagati di quanto ci è dovuto per ciò che meritiamo e con gli interessi per giunta, con un pizzico di riguardo in più. E che cazzo, noi due siamo in credito, per Dio, e così ci aspettiamo di tutto, letteralmente di tutto. Ci spetta tutto quello che vogliamo, un esemplare per ogni articolo. Qualunque cosa ci sia nel negozio, un'ubriacatura di shopping di ore e ore, del colore che vogliamo, delle marche nelle quantità che vogliamo, quando vogliamo, qualunque sia la cosa che vogliamo. Oggi non dobbiamo essere in nessun luogo particolare, per cui siamo diretti a Montara, una spiaggia a circa 35 minuti a sud di San Francisco, e in questo esatto momento stiamo cantando Any way you want it, that's the way you need it, any way you want. She loves to love, she loves to sing, she does everything. She loves to move, she loves to groove, she loves the loving thing. Ooh, all night, ooh, all night, ooh, every night. So all time, all time, ooh, baby, hold tight. She said, any way you want it, that's the way you need it, any way you want it. She said, any way you want it, that's the way you need it, any way you want it. Toff non conosce le parole, anch'io le so, maluccio, ma non ci potrete certo fermare per così poco. E gli faccio cenno col dito quando arriva la sua parte, ma lui mi osserva senza capire. Gli indico la radio, poi lui e poi la sua bocca, ma vedo che è ancora confuso. E d'altro canto non è mica facile sbrigare questa faccenda senza precipitare giù dall'autostrada dritti nel Pacifico. E comunque sia, in effetti è come se gli agesti gli stessi suggerendo di mangiarsi l'autoradio. Però insomma dovrebbe essere in grado di capirlo. Non sta collaborando, oppure è scemo, ecco, forse è scemo. Fanculo, decido per l'assolo. Raggiungo le note di Steve Perry, mi produco anche nel vibrato la Steve Perry. Ce la faccio perché sono un cantante eccezionale. All night, all night, ooh, every night. So all time, ooh, baby, all time. So cantare o no? Grido. Cosa? Grida lui. Ci sono anche i finestrini spalancati. Ho detto so cantare o no? Scuote la testa. Come sarebbe a dire? Grido. Io so cantare come? Toff tira su il finestrino. Che cosa hai detto? Non ti ho sentito. Ho detto so cantare o no? No, sorride. Non sai cantare per niente. Esito all'idea di esporlo a band come i Journey, perché l'apprezzamento della loro musica non farebbe altro che guadagnargli il ludibrio dei suoi coetanei, sebbene di tanto in tanto ponga resistenza. È difficile che i bambini sappiano che cosa è bene per loro. Gli ho comunque insegnato ad apprezzare tutti i veri precursori della musica contemporanea: Big Country, Haircut 100, Loverboy. E si può ben dire fortunato, il suo cervellino è il mio laboratorio, il mio deposito Vi ci posso ammucchiare i libri che scelgo io, i programmi televisivi, i film, le mie opinioni sui politici, eventi storici, vicini di casa, passanti. TOF è il mio corso aperto, 24 ore su 24, la mia audience in cattività, obbligata a ingerire tutto quello che decido io. Ragazzo fortunato. E nessuno me lo può impedire. Lui è mio. E nessuno me lo può impedire, nessuno può impedirci nulla. Non potete impedirci di cantare, non potete impedirci di fare pernacchie, non potete impedirci di tenere le mani fuori dal finestrino per testarne l'aerodinamicità nelle varie posizioni o di spalmare il contenuto dei nostri nasi sul cruscotto. Non potete impedirmi, su un rettilineo, di dare il volante a Toff, che ha 8 anni, mentre io mi tolgo il maglione perché improvvisamente si è messo a fare un caldo bestiale. Non potete impedirci di gettare sul fondo dell'auto la carta dei nostri bastoncini di carne salata o di lasciare nel bagagliaio la nostra biancheria spiegazzata per, cazzo, già 8 giorni, perché abbiamo avuto altro da fare. Non potete impedire a Toff di dimenticare una confezione aperta di succo d'arancia sotto il sedile, dove fermenterà e imputridirà emanando un puzzo intollerabile all'interno dell'abitacolo, la cui origine rimarrà misteriosa per settimane, durante le quali bisognerà tenere i finestrini sempre aperti fino a che finalmente non si capisce cosa è stato e Toff non viene interrato in giardino fino alle orecchie con la testa cosparsa di miele, o almeno è quella la fine che si sarebbe meritato di fare. Non potete impedirci di guardare con commiserazione i tristi abitanti di questo mondo, tutti quelli che non hanno avuto in sorte il nostro fascino, che non sono stati messi alla prova dalle nostre tribolazioni, che sono privi delle nostre cicatrici e pertanto deboli, gelatinosi. È scorretto, lo so, la combinazione, voglio dire, noi contro di loro o contro di voi, è scorretto. Noi siamo un pericolo pubblico. Siamo temerari e immortali, noi. La nebbia si alza da dietro le cime rocciose e cala a onde sull'autostrada. Il blu irrompe poi da dietro la nebbia e all'improvviso, da quel blu, il sole comincia a urlare. Com'è? Il mondo è orribile e la gente è triste. Sto a letto. Mi rigiro tutta notte nel freddo e indisturbato abisso delle lenzuola senza dormire. Il mio vicino cammina per la sua stanza. Indossa la maschera lucente di un falco dal grande becco. Sta alla finestra. Una piuma viola sale dalla sommità del suo elmo. La luce della luna si versa come latte su di lui e il vento sciacqua le bianche coppe vitree dei suoi occhi. Con l'elmo in un sacchetto della spesa siede nel parco. Sventola una bandierina americana. Non lo si sente quando si sposta dietro alle siepi e alle piante sempre sui confini consunti del paese e punta una pistola a qualcuno come me. Mi accuccio sotto il tavolo della cucina e mi dico: sono un cane. Chi ucciderebbe mai un cane? La moglie del vicino torna a casa. Entra in salotto, si spoglia, la chioma le ricade sulla schiena. Pare che lei guadi lunghi fiumi placidi d'ombra. Ha le piante dei piedi nere. Bacia il marito sul collo e gli infila le mani nei calzoni. I miei vicini ballano. Rotolano sul pavimento, lui le mette la lingua nell'orecchio, i suoi polmoni esalano il fetore della broda e del clima dell'inferno. Per strada c'è gente che si sdraia, ginocchia all'aria, con occhi colmi di lacrime, ceneri che penetrano nelle orecchie. I vestiti gli vengono strappati di dosso, hanno le facce estenuate. Cavalieri gli galoppano intorno, spiegando perché dovrebbero morire. La moglie del vicino mi chiama, la bocca schiacciata contro il muro alle spalle del mio letto. Dice: mio marito è morto. Io mi giro sul fianco, sperando che non abbia mentito.

non posso dirvi molto. Io faccio la parte di un dottore in teologia che somministra conforti spirituali agli indigeni e nel part-time piazza apriscatole e giacche marinare ai selvaggi della Costa d'Oro africana. Quando incontro Cico per la prima volta, lui lavora in un saloon dove vende spugne ai beoni che non reggono l'alcol. Arpo è un caddy arabo che abita dentro una piccola urna greca un po' fuori mano. Potrei dirvi ben altro, ma non voglio guastarvi la sorpresa. Il tutto ha ricevuto l'approvazione dello Hayes Office di tutto Uncinetto e dei superstiti dei moti di High Market. E se i tempi sono maturi, questo film potrebbe essere la scintilla che farà scoppiare un nuovo disastro mondiale. Cordialmente, Groucho Marx. Invece di rabbonire gli avvocati, questa lettera parve sconcertarli ancora di più. Risposero che continuavano a non capire il succo della vicenda e che sarebbero stati grati al signor Marx se questi avesse voluto diffondersi maggiormente in particolari. Groucho si disimpegnò come segue. Cari fratelli, mi spiace dirlo, ma dall'ultima volta che vi ho scritto, nella trama del nostro ultimo film, Una notte a Casablanca, sono sopraggiunti alcuni cambiamenti. Nella nuova versione io sono Bordello, la fiamma di Humphrey Bogart. Arpo e Cico sono venditori ambulanti di tappeti, i quali, stufi di srotolarli, entrano in un monastero così, per sport. Ma sono loro a rimanere giocati, perché in quel luogo non si pratica nessuno sport, solo ritiri. Sul porto, a un tiro di sasso dal monastero, c'è un albergo straripante di rubiconde donzelle. Molte di loro sono state censurate dallo Hayes Office per adescamento. Arpo sposa il detective di un albergo, Cico gestisce un allevamento di struzzi, la ragazza di Humphrey Bogart, Bordello, finisce per diventare una Beckle Girl, è morta lì. Come vedete, si tratta proprio di un sunto a grandi linee. Potremo salvarci dall'estinzione soltanto se la pellicola continuerà a scarseggiare. Vostro affezionatissimo Groucho Marx. Dopo questa lettera, i fratelli Marx non ebbero più notizie dall'ufficio legale della Warner Brothers. I nostri nemici sono innovativi e pieni di risorse. Non smettono mai di pensare a nuovi modi per colpire il nostro paese e il nostro popolo. E neanche noi. George W. Bush. Lo so quanto è difficile per voi mettere del cibo sulle vostre famiglie. George W. Bush. Non ho mai amato particolarmente le guide turistiche, perciò quando cerco di orientarmi in una città americana che non conosco, di solito comincio rivolgendo al tassista o all'impiegato della reception qualche domanda stupida relativa ai dati dell'ultimo censimento. Dico stupida perché in realtà non mi interessa quanta gente vive a Olympia, Washington o a Columbus, Ohio. No, non sono brutti posti, ma i numeri non mi dicono niente. Quello che davvero mi interessa sono le leggi locali sull'utilizzo delle armi. Posso portare con me un'arma nascosta? E se sì, in quali circostanze? Quali sono i tempi d'attesa per una mitragliatrice? Posso comprare una Glock 17 se ho appena divorziato o mi hanno licenziato da poco? L'esperienza mi ha insegnato che può capitare di cavarne ottime storie. Ho scoperto, per esempio, che un cieco può andare legalmente a caccia sia in Texas che in Michigan. In Texas deve essere affiancato da un compagno vedente, ma ho sentito che in Michigan può tranquillamente andarci da solo. Il che solleva la domanda: e come fa a trovare ciò a cui ha sparato, qualsiasi cosa sia? E inoltre, come fa a portarla a casa? In Michigan i ciechi possono anche guidare? Io faccio domande sulle armi non perché ne voglia possedere una, ma perché le risposte variano moltissimo da stato a stato. E in un paese che diventa ogni giorno più omogeneo, è rassicurante incontrare questi ultimi deliziosi residui di regionalismo. In Europa le armi da fuoco non sono oggetto di dibattito, perciò quando viaggio all'estero la mia prima domanda riguarda di solito i versi degli animali. Da voi che verso fa il gallo è un ottimo espediente per rompere il ghiaccio, dal momento che ogni paese possiede una sua personale interpretazione. In Germania il gallo saluta il nuovo giorno con un bel chicarichi e i galli greci starnazzano kiriaki, mentre in Francia borbottano cocorico. Quando affermo che i galli americani fanno cucadoodle-doo, i miei ospiti mi guardano con un misto di incredulità e compassione. Voi, quando aprite i regali di Natale, è un altro metodo sicuro per intavolare una conversazione, perché credo la dice lunga sullo spirito nazionale. La gente che per tradizione apre i regali la vigilia di Natale solitamente è più devota e legata alla famiglia di quella che aspetta il mattino di Natale. I doni sono generalmente riservati ai bambini e i genitori tendono a non esagerare. A me non piacerebbe un granché, ma immagino che vada bene per chi preferisce cibo e famiglia alle cose di reale valore. In Francia e in Germania i regali si scambiano la vigilia di Natale, mentre in Olanda i bambini li ricevono il 5 dicembre, giorno in cui si festeggia San Nicola. Mi è sempre parsa un'usanza bizzarra, finché un giorno non ne ho parlato con un signore di nome Oscar, che mi ha messo al corrente di alcuni dettagli fondamentali mentre passeggiavamo dal mio albergo alla stazione ferroviaria di Amsterdam. A differenza dell'allegro e obeso Babbo Natale americano, San Nicola era magrissimo e veste in modo non dissimile dal Papa, con un alto cappello che ricorda una teiera ricamata. E questa tenuta, mi ha spiegato Oscar, è un residuato della sua precedente carriera di vescovo della Turchia. Chiedo scusa? Può ripetere? Non amo l'eccessivo sciovinismo culturale, ma questa storia mi sembrava totalmente sbagliata. Innanzitutto Babbo Natale non ha mai avuto una precedente carriera, non è in pensione e, ancora più importante, non ha niente a che spartire con la Turchia. È un paese troppo pericoloso dove difficilmente lo apprezzerebbero. Quando gli ho chiesto come avesse fatto a trasferirsi dalla Turchia al Polo Nord, Oscar mi ha risposto con grande convinzione che al momento San Nicola risiede in Spagna. Il che è semplicemente falso. Anche se in effetti potrebbe vivere dove gli pare, Babbo Natale ha scelto espressamente il Polo Nord perché è un luogo aspro e isolato. Lì nessuno lo può spiare e lui non deve preoccuparsi che qualcuno vada a bussare alla sua porta. In Spagna chiunque può bussare alla sua porta. E con quei vestiti Babbo Natale verrebbe riconosciuto di sicuro. E inoltre, a parte alcune formule di cortesia, ciao, come stai, ti va una caramella, Babbo Natale non conosce lo spagnolo, non lo padroneggia affatto e di certo non mangia tapas. Mentre il nostro Babbo Natale possiede una slitta volante, la versione olandese arriva in nave, dopodiché monta in groppa un cavallo bianco. Non so se ci sia una data precisa, ma di solito sbarca a fine novembre e gironzola per qualche settimana chiedendo alla gente che cosa vuole. Viene da solo? Chiesi. O si porta dei rinforzi? Oscar parve confuso. Aiutanti? Dissi. Viaggia con degli elfi? Forse sono ipersensibile, ma mi sentii personalmente insultato quando Oscar bollò l'ipotesi come grottesca e inverosimile. Elfi, disse, che stupidaggine! Le parole stupidaggine e inverosimile acquistarono un nuovo significato quando appresi che San Nicola viaggiava con un seguito formato dai 6 agli 8 uomini neri. Cioè, chiesi a diversi olandesi se potevano essere più precisi, ma nessuno fu in grado di fornirmi una cifra esatta. Questi uomini neri, fra i 6 e gli 8, erano stati caratterizzati come schiavi fino alla metà degli anni 50, quando il clima politico mutò e si decise che, anziché schiavi, sarebbero stati dei buoni amici. La storia ha dimostrato, credo, che tra la schiavitù e l'amicizia esiste più di un passaggio intermedio, un periodo di tempo contraddistinto non dai biscotti e dalle ore trascorse davanti al caminetto, bensì da spargimenti di sangue e reciproche ostilità. Anche in Olanda esiste la violenza, ma anziché sfogarsi tra loro, Babbo Natale e i suoi ex schiavi hanno deciso di riversarla in pubblico. Anni fa, se un bambino era stato cattivo, San Nicola e i suoi uomini neri tra i 6 e gli 8 lo picchiavano con ciò che Oscar descrisse come un piccolo ramo d'albero. Una bacchetta? Sì, disse, ecco, lo prendevano a calci e lo picchiavano con una bacchetta. Ah, se poi il bambino si era comportato davvero male, lo infilavano in un sacco e se lo portavano in Spagna. San Nicola ti prendeva a calci? Beh, ma adesso non più, disse Oscar. Adesso fa solo finta. Oscar la riteneva una scelta progressista, ma secondo me è ancora più perversa della punizione originale. Ti picchio, ma per finta. Ma che razza di Babbo Natale è un uomo che passa il suo tempo a fingere di prendere a calci la gente per poi infilarla in un sacco di tela? E poi, come ovvio, ci sono gli ex schiavi. tra i 6 e gli 8 che potrebbero potenzialmente dargli manforte in qualsiasi momento. È questa, a mio giudizio, la differenza più grande tra noi e gli olandesi. Se l'americano bianco medio sapesse che tra i 6 e gli 8 uomini neri potrebbero entrargli in casa nel cuore della notte, quello si armerebbe fino ai denti. Sebbene 8 renne volanti siano un boccone difficile da digerire, la nostra versione del Natale conserva una certa ragionevolezza. Babbo Natale vive con la moglie in uno sperduto villaggio del Polo Nord e una volta all'anno passa una notte a viaggiare per il mondo. Se sei stato cattivo ti porta il carbone, se sei stato buono e vivi in America ti porta più o meno quello che vuoi. Noi diciamo ai nostri bambini di fare i bravi e li spediamo a letto. Un genitore olandese deve fare i conti con una storia assai più spinosa. Allora, bambini, dirà ai suoi figli, prima di andare a letto vi conviene preparare una piccola valigia con le vostre cose. Stanotte verrà l'ex vescovo della Turchia, accompagnato da 6 o 8 uomini neri. Può darsi che vi lascino qualche dolcetto nelle scarpe, ma è anche possibile che vi infilino in un sacco e vi portino in Spagna o che facciano finta di prendervi a calci. Non lo sappiamo per certo, perciò vogliamo che siate preparati. Questa è la ricompensa per chi vive in Olanda. Da bambino ti senti raccontare questa storia e da grande ti tocca ripeterla. Come ciliegina sulla torta, il governo ha legalizzato le droghe e la prostituzione. Come si può non desiderare di essere olandese? Oscar terminò il suo racconto proprio mentre giungemmo alla stazione. Seduto da solo, in quell'edificio grande e affollato, circondato da migliaia di olandesi educati e dall'aria interessante, non potei evitare di sentirmi un essere umano di seconda classe. L'Olanda era un piccolo paese, questo sì, ma aveva tra i 6 e gli 8 uomini neri e un'ottima storia della buonanotte. Essendo una persona piuttosto competitiva, provai invidia e quindi risentimento. Stavo ormai sconfinando nell'aperta ostilità quando di colpo mi tornò in mente il cacciatore cieco che si aggirava in solitudine per i boschi del Michigan. Può capitargli di abbattere un cervo o di piantare allegramente un proiettile nella pancia di un campeggiatore. Forse troverà la strada per tornare alla macchina, oppure vagherà per 2 settimane senza meta per poi piantarsi davanti alla porta di casa tua. Non lo sappiamo con certezza, ma quella licenza puntata sul petto ispira il genere di racconto che, in definitiva, mi fa sentire fiero di essere americano. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not poop, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's nasty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping, he knows when you're awake. He knows when you'll be bad or good, so be good for goodness sake. So you better watch out, you better not cry, you better not poop, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. una delle cose che uso su Google per tirare fuori le mappe. È molto interessante vedere, non mi ricordo come si chiama il programma, ma vai sul satellite e puoi... Tipo, a me piace guardare il mio ranch. George W. Bush. Benvenuti nella grande D, Jack e Jackie. Dopo le strette di mano e i saluti, Jack Kennedy si scostò dagli uomini della sorveglianza schivando le pozzanghere e si diresse alla cancellata. Stese una mano verso la folla e tutti si sporsero in avanti guardandosi a vicenda per confrontare le reazioni. Il presidente si spostò lungo la cancellata, bello e abbronzato, lo spettacolare sorriso rivolto alla barriera di bocche aperte. Assomigliava a se stesso. Alle foto, lo skipper a occhi stretti nel riverbero marino, coi denti bianchi e splendenti. C'era solo una traccia del gonfiore cortisonico che qualche volta gli appariva sul volto, il cortisone con cui curava il morbo di Addison. Scavalcarono il cancello circondandolo. Quanta gente, quante mani. Il bianco sorriso sfolgorò. Voleva che tutti sapessero che non aveva paura. La Lincoln era blu scuro con un riflesso iridescente color pavone. La bandiera americana e lo stendardo presidenziale sventolavano sui parafanghi anteriori. Due uomini del servizio segreto davanti, il governatore Connelly e sua moglie sugli strapuntini e i Kennedy dietro. La Lincoln si avviò al seguito di un'autocivetta e cinque motociclette guidate da agenti della polizia cittadina con il casco bianco e la faccia chiusa nella tradizionale impassibilità. Li seguiva una processione eterogenea lunga quasi un chilometro di decappottabili a nolo, station wagon, berline, vetture di scorta del servizio segreto, auto di collegamento, autobus, moto, biciclette, Chevrolet, Lyndon, Lady Bird, deputati, assistenti, mogli, uomini dotati di Nikon, Rolleiflex, telecamere di cenigiornali, radiotelefoni, fucili automatici, fucili a pompa, pistole d'ordinanza e i codici per dare il via a un attacco atomico. La Lincoln sembrava emanare luce. Il sole lampeggiava contro i parafanghi e il cofano faceva scintillare la copertura dei sedili. Il governatore agitava il suo Stetson chiaro, le bandiere garrivano e la First Lady aveva un fascio di rose nell'incavo del braccio. La superficie lucida dell'auto rispecchiava lo scenario lungo la strada. Non che ci fosse molto da riflettere nel paesaggio circostante. Isolamento aeroportuale, costruzioni orizzontali con il tetto coperto di ghiaia, cartelloni che pubblicizzavano bistecche sfrigolanti, spettatori occasionali, coraggiosi, che salutavano da quei tristi spazi aperti. E un uomo solo, in piedi, sul ciglio, con in mano una copia del Morning News, aperta alla pagina che aveva sollevato tanto clamore. «Benvenuto a Dallas, Mr. Kennedy!» Un'inserzione pagata da un gruppo che si chiamava American Fact Finding Committee. Rancori, accuse, fantasie sciuviniste, niente di straordinario in realtà, nemmeno per un giornale importante, salvo che il testo era listato a lutto, amabilmente minaccioso. Jack Kennedy aveva già visto quella pagina e ora, con il profilo di Dallas visibile in lontananza, si voltò verso Jacqueline e mormorò: «Stiamo per entrare nel manicomio». Tuttavia era importante farsi vedere su un'auto scoperta, senza cupolino, senza agenti sulle predelle. Era venuto qui, in mezzo a loro, in un momento di divisioni profonde, con il paese trascinato in direzioni opposte, opposti eserciti sul piede di guerra, e tendeva la mano a entrambi. Presentimenti. Da settimane portava con sé un foglietto con i versi di una sanguinosa catastrofe shakespeariana. Mi squarciano, mi sbranano. Tuttavia era importante che l'auto procedesse molto lentamente per dare alla folla la possibilità di vederlo. Massima esposizione, come dicono i pubblicitari. E poi chi vuole un presidente con il cuore di coniglio? E c'erano folle amichevoli più avanti. Gli sporadici spettatori dei sobborghi, pupazzi stilizzati, lasciarono il posto a gruppi più numerosi, ad assembramenti. Apparivano agli incroci, erano ritti sui paraurti nel traffico fermo e gridavano «Jackie!». Cartelli, bandiere, una folla più fitta, 15 file di persone, folla che trabocca sul marciapiede sporgendosi per guardare la limousine scintillante. I poliziotti in sella alle Harley contenevano le frange disordinate. C'erano persone appiattite contro i muri delle case che non riuscivano a vedere la limousine, ma soltanto figure in movimento, spiriti dell'aria limpida, eterei e sereni. Nelle vicinanze di Harwood la ressa diventò impressionante. Una moltitudine, la forza di un uragano. C'era il morbo costante delle moto, un rumore eccitante, potente, e il presidente salutava e sorrideva e mormorava grazie. Si consiglia di tenere la folla dietro le transenne, qui invadono la carreggiata. Una strada dopo l'altra la folla cominciava a capire perché era venuta. Il messaggio superava gli spazi che separavano un assembramento dall'altro, un contagio. Il mistero di un impulso condiviso li aveva portati lì, a centinaia di migliaia, provenienti da tante storie e modi di esistere, da tante diverse esperienze della sera prima. Una convergenza di sogni, tutti insieme lì a inneggiare al passaggio della Lincoln. Erano venuti per essere un evento, una coscienza, per sgominare le antiche paure fideistiche, la fede rigida e sospettosa della città del denaro facile, la grande D che abbandona la cautela e il sospetto per produrre il boato di una tromba di sabbia vorticosa. Erano venuti per circondare il corpo fragile di un uomo e per esigerne il sorriso, per ricevere qualche briciola della sua anima generosa. Lì era ritto alla finestra di sud-est, dietro una barriera di scatoloni. I più grossi formavano una parete alta circa un metro e mezzo e si portavano dentro un ricordo, una sensazione accogliente di nascondiglio infantile che lo faceva sentire appartato e sicuro. All'interno della barriera c'erano altri quattro scatoloni, uno appoggiato sul pavimento per il lungo, due accatastati e uno più piccolo sul davanzale di mattoni. Un ripiano, un appoggio, un supporto per il fucile. La carta da imballaggio che aveva usato per nascondere l'arma era sul pavimento, ai suoi piedi. Polvere, stracci di ragnatele che pendevano dal soffitto. Vide sul pavimento una moneta da 10 cent, la raccolse e se la mise in tasca. Guardò giù in Houston Street il corteo che si avvicinava, lento e nitido nel sole. C'erano persone sparpagliate sui prati di Dealey Plaza, forse 150, molte con la macchina fotografica. Lì teneva il fucile a portatarm, più o meno, ed era in piena vista nel finestrone. Tutto sembrava così dolorosamente chiaro. Il presidente aveva i capelli castani e la First Lady era raggiante in tailleur rosa e cappellino rotondo. Lì era contento che fosse così bella. Per lei, innanzitutto, per le telecamere, per le foto che sarebbero entrate nell'archivio permanente. Tutto era lento e chiaro. Lì appoggiò un ginocchio sul pavimento, il gomito sinistro sugli scatoloni accatastati e la canna del fucile sullo scatolone sopra il davanzale. Mirò alla nuca del presidente. La Lincoln si infilò dietro i rami della quercia della Virginia. Andava a circa 15 chilometri all'ora, pronto a sinistra, pronto a destra. Vide il metallo della carrozzeria scintillare nel cannocchiale. Ora la Lincoln si muoveva più lentamente, era quasi immobile, ferma, indifesa nella strada, a 80 metri dal sottopassaggio, pronta sulla linea di fuoco. John era accasciato sullo strapuntino. Nellie Connelly lo prese tra le braccia, abbassò la testa su quella del marito. Fingeva di essere lui. Erano vivi o morti tutti e due, non potevano essere l'una una cosa e l'altra un'altra. Poi il terzo colpo mandò poltiglia dappertutto, tessuto, frammenti ossei, pallide falde di tessuto, pappetta acquosa, tessuto, sangue, materia cerebrale, addosso a tutti. Sentì Jackie dire: «Hanno ucciso mio marito». Avrebbe potuto essere la sua di voce, qualcuno che parlava al suo posto. Era convinta che John fosse morto. Poi lui si mosse leggermente e nello stesso istante Nellie pensò che Jackie fosse scesa dalla macchina, scesa dal cofano posteriore, ma adesso chissà come era tornata. tra le sue braccia, John si mosse. Erano un solo cuore che pompava sangue. Ci hanno colpito. Hanno colpito Lancer. Portaci al Parkland, presto. La macchina prese velocità e tutto cominciò a sfilare via di corsa, ai lati. Sentì Jackie che diceva: ho il suo cervello in mano. Tutto sfilava via di corsa.